Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. È arrivata la domanda che aspettavamo da tempo, infatti lo diciamo subito nei titoli che adesso ascoltate. Benvenuti a Mebius, incominciamo fra pochissimo. Lo si vede nei luoghi pubblici, all'autogrill come al cinema, sono sempre più lunghe. Di che cosa parliamo? È arrivata finalmente la domanda che aspettavamo da tempo. Il conclave tra Jammer e gabbie di Faraday. Questi alcuni degli strumenti probabilmente utilizzati per garantire la sicurezza all'interno della Cappella Sistina. In tutto il mondo questa è la settimana del cervello. Eventi e convegni dedicati alle ricerche neurologiche. Ma come mai non abbiamo ancora farmaci che ci fanno guarire dal disagio mentale? A Trento si aprono i giorni dedicati alle tante applicazioni tecnologiche per la società del futuro. Sono gli ICT Days 2013. I cristalli liquidi, simili a quelli di display e TV, si possono utilizzare per creare piccole fibre muscolari artificiali. La prospettiva è di realizzare presto veri e propri muscoli robotici. Sì, è arrivata questa domanda che aspettavamo da tempo. Non vorrei assolutamente che si cadesse in un discorso ironico del tipo Federico, chi è più bravo. Alla quale tutti abbiamo cercato di rispondere almeno una volta nella vita, e la nostra ascoltatrice Sara ha avuto il coraggio di porcela. Allora, io direi, prima di dare la parola a Sara e farvi ascoltare a tutti il quesito dell'anno, direi di ricordare i contatti. Allora, sì. Innanzitutto ricordatevi la mail moebius@radio24.it, attraverso la quale ci potete scrivere consigli, critiche, domande, quello che volete. Poi c'è anche Twitter, moebius_, cioè il trattino basso, online. Oh, forza su Twitter che siamo fortissimi. Tantissimi. E poi 32.000. 32.100 se non sbaglio, quindi dobbiamo superarli. Sì. E poi Facebook Moebius Scienza. E ora la parola a Sara. Buonasera, mi chiedevo come mai quando vado nei luoghi pubblici, per esempio in autogrill o al cinema, la coda davanti alla toilette femminile è sempre più lunga di quella maschile. C'è per caso una differenza anatomica o comportamentale? Ecco Chiara, come stavo dicendo prima, non vorrei che entrassimo in un clima di maschi e femmine, che sono più bravi, varie ironie. Qui noi siamo scientifici, io sono assolutamente curioso di sapere come si può sbrogliare questa cosa. Tutti ce lo siamo chiesto, certo, e quindi è giusto sapere se anche anatomicamente siamo uguali o differenti, e quindi siamo andati ovviamente dalla persona più rigorosa, un medico. Sì. Siamo in collegamento con l'urologo del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. Buonasera e benvenuto Paolo Belvisi. Buonasera. Dottore, insomma, tutti gli ascoltatori stanno aspettando questo quesito che, diciamo, è abbastanza fondamentale, perché tutti ci siamo accorti di questo fenomeno. Lei che dice? Anatomicamente intanto siamo uguali? No, dal punto di vista anatomico sì, dal punto di vista della capacità vescicale, nelle donne c'è una capacità vescicale lievemente ridotta rispetto ai maschi, quindi il riempimento della vescica di fatto avviene più rapidamente. Perché la vescica è più piccolina. Ha una capacità inferiore. Inferiore. Io ieri ho fatto delle ricerche. Ho scoperto che anche l'uretra, che è il condottino che unisce insomma la vescica all'esterno, è leggermente più corto, anzi forse quasi di 10 cm più corto della femmina rispetto al maschio. È corretto questo? Assolutamente sì, l'uretra femminile ha una lunghezza di circa 2 cm, l'uretra maschile è molto più lunga, dipende molto anche dalle dimensioni del pene. Ma questo può influire la lunghezza? No, questo non influisce assolutamente. Quindi, rispetto alla domanda che lei mi ha fatto, c'è anche da dire una cosa, cioè non è solamente il fatto che c'è una riduzione della capacità, c'è anche il fatto che per esempio il tempo di permanenza in un bagno di una donna è più lungo del tempo di permanenza di un uomo. Ci sono delle abitudini igieniche che le donne rispettano molto di più, e anche questo comporta un allungamento dei tempi di permanenza. Guardi che però qui dobbiamo complicarla, perché l'esperienza ci dice che, insomma, per esempio a me è capitato, guardi, recentissimamente ero a un convegno e c'è stato un coffee break, esattamente 3 secondi finito il coffee break, eravamo davanti alla toilette, c'erano una trentina di ragazze, di là c'erano due maschi. Quindi c'è anche una priori, eh? Poi lei ha ragione nel dire che ci sono delle pratiche. Ci sono vari fattori, cioè il fatto che le donne per esempio hanno le mestruazioni e quindi spesso ricorrono al bagno e questo, per certo. esigenze di questo tipo. Parlando ieri con un collega, diceva le donne fanno anche salotto in un momento di socializzazione, anche il bagno, questo mi sembra forse eccessivo. Sì. Però, allora, ecco. Posso intervenire? Allora, è vero, ci sono sicuramente delle motivazioni superiori, secondo me, delle donne ad andare in bagno per diversi motivi, uno si può anche sistemare, assolutamente quello sì, che richiede soprattutto dei tempi diversi, questo lo ammetto, rispetto all'espletamento semplice maschile, ecco, diciamo così. Quindi c'è una questione di tempi e una questione di motivazione. Più abbiamo detto questo piccolo, questa piccola differenza anatomica che appunto ci diceva il dottore, contenimento della vescica, e poi noi, io e Federico, ragionando nei giorni scorsi, ci dicevamo anche che forse alcune piccole patologie come possono essere le cistiti, le infezioni che portano appunto ad andare in bagno più frequentemente sono più frequenti nelle donne. È sbagliato? No, non è sbagliato. Come c'è nella donna, per esempio, una patologia abbastanza diffusa è quella data dalla vescica iperattiva, però se entriamo nel campo delle patologie ci sono un sacco di patologie maschili, sono anche invece di pertinenza maschile, che comportano lo stesso effetto. Problema. Certo. Quindi ecco, vedere poi qual è l'incidenza in un gruppo e nell'altro, questo comincia a essere un pochino più difficoltoso. Bevono di più, qui ormai siamo arrivati, ecco, a questo, bevono molto di più le donne. Una cosa, le donne effettivamente assumono più liquidi degli uomini, c'è una tendenza a bere maggiormente, quindi anche questo potrebbe essere, allora, questo certamente, se noi assumiamo una riduzione della capacità vescicale al fatto di assumere più liquidi, sommiamo il fatto che la permanenza nei bagni è più lunga per una serie di motivi, alla fine il risultato è quello di che vediamo e osserviamo. Insomma, non è che c'è una motivazione che avete ricavato da qualche ricerca specifica. Ma una serie complicata. Ci sono tanti fattori. Esatto. Come... non c'è una risposta univoca. L'unica risposta vera e reale è il fatto che la capacità vescicale è inferiore, quindi il riempimento avviene più rapidamente. Vabbè, insomma, dai. E poi ci forse la donna va anche in bagno non soltanto perché ha bisogno di andare urgentemente, ma no, insomma, ma va un attimo a darsi una sistemata, insomma, siamo molto più curate, questo è da dire. Sì, va bene. Questo è vero, questo è vero. Grazie mille, dottore. Prego, siamo soddisfatti. Stato utile. Assolutamente sì. Grazie, buon lavoro. Arrivederci, grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. È stato eletto il Papa e siccome ha scelto come nome Francesco, questo rimanda al fatto che probabilmente il clima, il dibattito all'interno del conclave, insomma quello che ci stava intorno, sia stato insomma particolarmente, probabilmente particolarmente intenso, oppure insomma diciamo che sapere cosa succedeva lì dentro sarebbe stato bello sapere che e magari sarebbe stato bello sentirlo dalle loro voci, insomma curiosare dentro la Cappella Sistina. Ecco, sarebbe stato tu bello. Pare di curiosare, diciamo lì pare che il problema possa essere un po' più spesso. No, certo, lì il problema di sicurezza è abbastanza imponente. Documenti dal Vaticano. Allora noi oggi ci interroghiamo sulle tecnologie che possono, che abbiamo a disposizione o che avremmo a disposizione per assicurare il blackout, diciamo totale. Così, totale della zona del conclave, quindi la zona della Cappella Sistina. Probabilmente alcune di queste possono essere anche state utilizzate, ma ora sentiamo il nostro esperto, che è un tecnologo dell'Istituto di Elettronica e Ingegneria dell'Informazione e delle Comunicazioni del nostro CNR di Genova, Maurizio Aiello. Buonasera Aiello. Buonasera a voi. Eccoci. Lei in un recente articolo insomma ci spiega quali potrebbero essere le tecnologie che hanno utilizzato realmente per garantire, come dire, la sicurezza. Ci sarà un corpo di sicurezza, no, del Vaticano. Poi lei è un collaboratore dell'Europol, comunque della sicurezza in genere, delle quindi polizie, ci certo. può raccontare. Ma guardi, il problema è particolarmente complesso perché le tecnologie hanno fatto veramente balzi da gigante, soprattutto le tecnologie trasmissive verso l'esterno, e quindi oggi esistono veramente una infinità di modi per eseguire quelle che potremmo chiamare intercettazioni abusive e mandare fuori quindi questo tipo di intercettazioni. Potremmo pensare banalmente ai telefoni cellulari nascosti, potremmo pensare alle connessioni UMTS, potremmo pensare alle microspie, apparati microfonici più o meno complicati. E quindi effettivamente per garantire la segretezza e la sicurezza del conclave è stato necessario adottare tutta una serie di accorgimenti tecnici che possono essere per evitare la trasmissione via onde radio delle registrazioni oppure della diffusione di informazioni volontariamente emesse da qualche cardinale o da qualche dipendente infedele. Possono certamente essere tecnologie di tipo passivo, quelle che vengono chiamate di fatto le gabbie di Faraday, cioè ci spieghi. Sono dei sistemi schermanti, quindi dei sistemi che sono in grado di inibire, di attenuare le onde elettromagnetiche e che possono essere composti da veri e propri pannelli metallici piuttosto che da pannelli che abbiano all'interno dei tessuti con un filato metallico che è in grado quindi di attenuare di 10-100 volte l'intensità del campo elettrico all'interno, per esempio, di una stanza. In un enorme guscio, diciamo, che schermi le onde. Un enorme guscio. In ambito professionale, quando si fanno analisi forensiche di dispositivi cellulari, si entra proprio in delle vere e proprie cassaforti di una certa dimensione che, essendo delle cassaforti metalliche, non consentono alle onde elettromagnetiche di entrare ed uscire. In questo modo si possono accendere dispositivi cellulari senza che ci sia il pericolo che remotamente ci sia qualche comando che viene dato, tipo cancellazione dei dati contenuti all'interno del cellulare e quant'altro. Certo, però ingabbiare la Sistina non è proprio un locale di 10 metri quadri. Ovviamente no. E infatti a questo tipo di tecnologie, tipo passivo, quindi che si limitano a diminuire l'intensità delle onde elettromagnetiche, si utilizzano invece tecnologie più di tipo attivo, quelli che vengono chiamati cosiddetti jammer o disturbatori. Questi lavorano su un concetto totalmente diverso. Il jammer di fatto è un dispositivo che produce rumore. Elettronico. Quindi, ovviamente, produce rumore di tipo elettronico. Diciamo, è paragonabile a quello che può essere un dispositivo rumoroso dal punto di vista sonoro, nel senso che se io voglio impedire tra due persone distanti 5 metri tra loro di parlare, è sufficiente che mi metta a fare molto rumore e queste non si capiranno. Come più si vede nei film quando alzano all'hi-fi per paura che ci siano le spie e poi parlo. Ma i jammer sono usati dai cacciabombardieri, per esempio, militari, no? E guardi, poi scusi, se non erro, nel territorio italiano è bandito. Assolutamente sì. Adesso entro nel dettaglio entrambe le cose. Nel territorio italiano ci sono delle leggi, sia decreti del Presidente della Repubblica che anche la Costituzione stessa, che in qualche modo tutelano le comunicazioni. E quindi dispositivi che sono atti a disturbare le comunicazioni sono formalmente vietati, a meno che naturalmente non ci siano interessi di ordine superiore. Un permesso. Ovviamente un permesso da parte della, per esempio, della magistratura di effettuare certe azioni per reprimere un crimine piuttosto che per fare delle investigazioni. Però non dimentichiamoci che lì non siamo strettamente solo in territorio italiano, ma siamo anche in territorio Vaticano, quindi io ovviamente non posso sapere quali siano le regolamentazioni del territorio Vaticano. Però mi scusi, ma Piazza San Pietro non lo è. Secondo lei tutti quelli che avevano un cellulare in Piazza San Pietro non riuscivano a chiamare? A me hanno riferito che tutte, diciamo, lungo la strada tra la Cappella Sistina e Santa Marta, in un rettangolo abbastanza ampio, non era possibile effettuare telefonate, esatto. L'avevano detto anche durante le telecronache, devo dire, però hanno detto c'è tanta gente che vuole chiamare, quindi la cella non tiene, certo. Mentre invece era il jamming del Vaticano. Diciamo, si possono dire tante cose, ci possono essere tante spiegazioni. Poi dopodiché, naturalmente, chi lo può sapere? Chi lo può sapere? Quello che è certo, diciamo, che appunto i jammer esistono, sono dispositivi che hanno un determinato costo, vengono usati nei teatri militari, come lei giustamente specificava prima, e il loro utilizzo è tipicamente quello di impedire l'uso dei radiocomandi. Sì, jamming vuol dire marmellata, cioè fare marmellata dei segnali. Fare no? un po' di pasticci. Esatto, sì, fare un pochino di rumore in maniera tale che la trasmissione sia sostanzialmente disturbata, un po' come quando accendiamo il microonde vicino alla televisione, naturalmente che si sente un pernacchione. Sì, è vero. Esatto, ecco, se un cardinale, adesso no, lo diciamo in maniera così, o un funzionario ipotetico, avesse avuto una microspia, ecco, anche quella sarebbe stata schermata, cioè non avrebbe avuto la possibilità di recepire nessuna informazione. Allora, le microspie lavorano su intervalli di frequenza differenti dai cellulari, quindi laddove i cellulari lavorano nella banda 800, 900 MHz, 1800, 1900 e quant'altro, le microspie lavorano ad altre frequenze. I jammer professionali militari sono in grado di inibire un range di frequenza veramente ampio e quindi di mettere fuori uso qualsiasi tipo di dispositivo di radiocomunicazione. Quindi alla sua domanda, per rispondere, bisognerebbe sapere che tipo di jammer effettivamente è stato usato, ma la possibilità c'è che venga inibito qualsiasi tipo di comunicazione radio. Basta settarlo, insomma, con la lunghezza d'onda, certo, giusta. Certo. Sì, su multiple lunghezze d'onda, su multiple frequenze, quindi su multiple range di frequenza contemporaneamente. Ecco, lei ha esperienza in questo campo e ci diceva che in un ambiente così complicato come può essere quello della Cappella Sistina, potrebbero essere stati utilizzati anche dei materiali, chiamiamoli così, un po' innovativi, tecnologici, per cui tendaggi con particolari reticoli che possano schermare in qualche modo, oppure sì, guardi, addirittura gel. Sì, assolutamente, perché il concetto è che le griglie di materiale ferroso riescono a inibire o attenuare il passaggio dell'onda elettromagnetica. Quindi il fatto di utilizzare un tessuto che ha all'interno materiale organico, come può essere cotone, mischiato con dei fili di rame e tungsteno, naturalmente di fatto forma una vera e propria griglia, che può essere appesa come un tendaggio davanti alle finestre, può essere appesa sopra il soffitto. Questo naturalmente contribuisce ad attenuare il segnale. Certo. Il discorso del gel invece è relativo agli infissi, non credo che sia il caso della Cappella Sistina, ma nel momento in cui ci sono degli infissi è possibile andare a sostituire i normali vetri con dei vetri che all'interno, nella camera d'aria che si forma tra un vetro e l'altro, del doppio vetro, contengono dei particolari gel che hanno anche questi una proprietà schermante, quindi proprietà di attenuare l'onda. Ma mi scusi, dai vetri non passerebbe il segnale, ma poi da altre parti invece sì, cioè il per gel. Per esempio dai muri, certo. Per esempio dai muri, assolutamente. Ora, escludo che abbiano spalmato i cardinali con dei gel, ma anche sulla Cappella Sistina, sugli affreschi di Michelangelo, non credo. Quindi non direi credo. Che forse questo non l'hanno. Ma è il famoso... Guardi, l'approccio di solito però è sempre multiplo, cioè in sicurezza si tende a fare una certa ridondanza, cioè io intanto si comincio mette a schermare, certo, lo schermabile, lo schermare e comincio a inibire quello che posso, quello che poi non riesco a inibire ci metto un bel jammer e disturbo. Senza contare che poi ci sono anche altri dispositivi più fini per inibire comunicazioni particolari, tipo quelle dei cellulari. La cosa più semplice, se io volessi inibire comunicazioni di un cellulare, potrebbe essere andare a utilizzare quei dispositivi che si chiamano IMSI catcher o derivati, che sono di fatto delle celle finte. Sa che la comunicazione cellulare avviene tramite celle, cioè il nostro cellulare parla con la cella più vicina e la cella poi butta sull'infrastruttura di rete. Voi ingannate un po' il cellulare. Esatto, si può ingannare il cellulare dicendogli guarda, io in realtà sono il provider e con un segnale bello forte è possibile convincere il cellulare ad agganciarsi a una cella finta e da lì poi il cellulare non è. Ma lì deve avere qualcosa in orbita che fa questa operazione? No, assolutamente no, è sufficiente mettere nei pressi. In Piazza San Pietro, per esempio, metto una finta cella. Un ripetitore finto. Esattamente, il concetto è questo. E poi dopodiché decido cosa fare. Posso decidere a quel punto se intercettare la comunicazione e quindi far passare attraverso di me il flusso dati e poi girarla effettivamente sull'infrastruttura di rete, quindi consentire la comunicazione, oppure posso banalmente inibirla. Ok, ma non è che con tutte queste interferenze avranno eletto il Papa sbagliato, perché... è arrivato un suggerimento dall'esterno. Però il sistema non era tramite telecomando, come invece ho scoperto si faceva prima del conclave. Avevano ogni cardinale, per decidere le congregazioni, avevano un telecomando nel quale i tasti erano in latino e ogni cardinale poteva pigiare usare il tasto, insomma, sì. Ecco. Invece nella Cappella Sestina, quando sono dentro, diciamo, no, quando sono chiusi dentro, carta e penna, giusto? Carta e penna, a meno che la penna, ecco, non sia quella che trasmette. Però lì, insomma, abbiamo capito che c'è stato un bel lavoro, probabilmente sofisticatissimo dal punto di vista tecnologico. Sì. Grazie di queste, queste grazie, delucidazioni. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Tanti avvenimenti in tutto il mondo, tanti convegni e anche produzione di testi, insomma, di contenuti dedicati alla ricerca sul cervello e a quello che sappiamo del cervello. Per parlare di questa settimana mondiale dedicata a questo organo certamente così centrale e cruciale per la vita di tutti gli animali, ho qui con me questa sera Giovanni Sabato. Ciao Giovanni. Ciao, buonasera a tutti. Giovanni Sabato, giornalista di scienza, tu hai seguito parecchi, insomma, di questi avvenimenti, hai maneggiato molti di questi contenuti, in particolare hai scritto un articolo piuttosto ampio sull'Espresso e anche su Mente e Cervello. Sì, esatto. Sono due riviste questa settimana un po' cugine dal punto di vista dei contenuti scientifici. Senti Giovanni, allora, sono state dette tantissime cose, sono state fatte osservazioni d'ogni natura sulla ricerca che riguarda il cervello. Sarebbe assolutamente impensabile cercare di fare una sintesi. Certo. Invece prendiamo un aspetto che credo interessi moltissimi, insomma, in ascolto, ed è il fatto della terapia, della cura. Il disagio mentale, la malattia mentale, arrivati ad oggi, insomma, non ha grandi strumenti, può essere contenuta, un po' gestita, ma insomma farmaci particolarmente efficaci per curare il disagio mentale non ne abbiamo. Cioè, si riflette su questo aspetto? Sì, questo è forse il, diciamo, il segno più tangibile di quanto sia complesso e difficile da studiare il nostro cervello. Mm. Il fatto che tutto sommato ci sono stati una cinquantina di anni fa tutta una serie di scoperte prodigiose per l'epoca dei psicofarmaci, tutti i tipi di psicofarmaci attuali, no? Gli ansiolitici, gli antidepressivi, gli antipsicotici che per evitare i sintomi degli schizofrenici, quelli più di esagitazione, così, e che sembrava quindi l'inizio di una nuova era, e per certi versi lo è stata, ma poi ci siamo un po' fermati lì. Cioè, i farmaci che abbiamo adesso non sono, tranne qualche eccezione, insomma, molto significativamente migliori di quelli che avevamo 50 anni fa. Tra l'altro, scoperti, se non sbaglio, quelli appunto 50 anni fa, non tanto per una ricerca sistematica, ma quasi per caso. Sì, in molti casi è successo così, non è che si sapesse come funziona il cervello e si cercasse un farmaco specifico, magari c'era un medico particolarmente attento e acuto che scopriva che i malati che prendevano un antitubercolare avevano poi, se avevano problemi di depressione, miglioravano e quindi da quello hanno ricavato un antidepressivo e così via, insomma. Sono state scoperte un po' casuali che però non erano mirate ai meccanismi di fondo delle malattie, e un po' controllavano i sintomi. Certo, e quindi questo ci dice che effettivamente, per quanto siano vecchi, diciamo di 50 anni, però nemmeno uscivano da una ricerca specifica. Però adesso, negli ultimi decenni, insomma, invece di ricerca specifica ce n'è tanta, ma è difficilissimo trovare qualcosa, insomma, un innesco per dei farmaci diversi? Come siamo messi? Sì, è stato difficile, possiamo dire che è stato difficile finora, un po' perché appunto del cervello si sapeva poco. Cioè, non è che del cervello normalmente si può fare una biopsia, per esempio, come fai della pelle o altre cose. Ci sono gli studi per immagini, che però anche quelli sono comunque indiretti e poi abbastanza recenti quelli più sofisticati. E ci sono gli studi di modelli animali, mentre come sappiamo nella farmacologia sono stati e per certi versi sono ancora essenziali, per il cervello funzionano solo in parte, perché ovviamente alcune strutture altri animali proprio non ce le hanno oppure funzionano in modo diverso. Ma poi in ogni caso sono stati fatti modelli, per esempio un tipo di esperimenti è quello in cui i topi vengono messi in acqua e loro cercano di battersi per riguadagnare la terra. Sì, quindi sono molto in ansia. Sono in ansia finché a un certo punto però non si rendono conto che non ce la fanno, si arrendono, e questo viene considerato un comportamento detto di disperazione dagli specialisti. Sì. Allora si è visto che dando appunto certi antidepressivi, dei primi che sono stati scoperti, questi topi si dibattono per più tempo prima di arrivare a disperarsi. Cioè, rispondono di più. Così sono stati trovati tanti altri antidepressivi simili a quel primo originario, ma naturalmente questo non è un modello che rispecchia tutta la complessità della depressione umana e comunque non ho i meccanismi biologici anche della depressione, quindi magari sono stati scartati con ogni probabilità altri farmaci che magari agivano su altri meccanismi della depressione ma che nel topo non facevano nulla per questo motivo, e quindi per alcuni aspetti si riesce comunque a simulare degli animali questi disturbi, per altri no. Per altri assolutamente no. Ma c'è qualche strada nuova che si sta cercando di percorrere? Anche se mi rendo conto che certo, poi lasciamo un attimo da parte tutto il discorso sulla sperimentazione animale, però insomma certo sappiamo per esempio che il fegato di certi animali come i maiali, se non sbaglio, è particolarmente simile a quello dell'uomo, però tu dicevi poco fa fare esperimenti sul cervello di animali e farlo sull'uomo, insomma sono due mondi che possono essere molto molto separati, però c'è cioè, qualche per cosa. Aspetti funzionano anche bene gli animali come modelli anche per il cervello, però solo per alcuni e non per altri, ecco. Sì, okay. E invece adesso ci sono delle nuove tecnologie che stanno venendo fuori in questi anni, che sono ovviamente le ricerche sul genoma, per esempio, per cui in quel caso tu puoi vedere quali sono i geni che in qualche modo intervengono nei malati di un certo tipo o in una certa malattia. Un'altra, e quindi individui, diciamo, quali sono i circuiti nel cervello, quali sono le molecole, le cellule che sono coinvolte in una certa malattia, e così che possono essere bersagli quindi dei nuovi farmaci. È una cosa interessante che si è scoperta, per esempio, che quando fai questi studi per le cardiopatie o per il diabete, per insomma, molti tipi di malattie, hanno trovato dei geni che più o meno hanno a che fare con gli stessi meccanismi su cui agiscono i farmaci contro il diabete o contro le malattie del cuore. Cioè, quindi, spiegami meglio, hanno fatto, facendo ricerche di tipo genetico su malattie cardiovascolari? Sì, hanno cercato quei geni, per esempio, che aumentano un po' il rischio di malattie cardiovascolari o che sono alterati nell'espressione di queste malattie, e hanno visto che più o meno sono geni che riguardano, diciamo, già quel tipo di molecole o di cellule su cui agiscono i farmaci contro queste malattie, quindi diciamo i farmaci che esistono infatti sono attivi effettivamente sui meccanismi alla base della malattia. Nel caso del cervello invece quello che si è visto è che per varie malattie mentali i geni che sta venendo fuori, che sono coinvolti, sono diversi dai meccanismi biologici su cui agiscono i farmaci. Quindi appunto, i farmaci attuali probabilmente agiscono su meccanismi un po' secondari, su sintomi, su aspetti. Ah, ho capito, cioè si sta scoprendo che per via genetica i bersagli, se vogliamo dire così, delle terapie nuove e diverse devono essere diversi, differenti da quelli che invece interagiscono, entrano in campo quando usiamo gli antidepressivi normali? Sì, esatto. Gli antidepressivi agiscono per esempio sulla trasmissione di una certa molecola nel cervello di alcuni neurotrasmettitori, magari aumentando o diminuendo la loro attività, e invece si è visto che i geni che sono più coinvolti insomma nella depressione magari influenzano la formazione dei collegamenti fra i neuroni, cioè le sinapsi, in altri aspetti. Quindi bisognerà puntare probabilmente nel tempo a farmaci che agiscano su quei processi. Certo, quindi e si questo... apre proprio un'altra finestra, un'altra porta. Sì. E anche dal punto di vista sempre sia dello studio, sia forse in futuro delle sperimentazioni per sostituire magari in questi ambiti almeno gli animali con cellule staminali che vengono ottenute magari dai malati stessi facendo ringiovanire le cellule adulte comunque insomma che vengono trasformate poi in cellule nervose, in neuroni, e si può studiare cosa c'è che non va nei neuroni malati rispetto a quelli sani in vitro, e magari l'idea per il futuro è anche di sperimentare in vitro questi farmaci e individuare quelli più promettenti. Certo, e questo è il grande scenario che viene fuori dalla ricerca sulle staminali, che per dirla in breve punta a sostituire il pezzo, no? Come si fa con un motore che non funziona, insomma, se c'è qualcosa che non va, sostituiamo le cellule che sono implicate in questo difetto. Questo secondo me è una prospettiva possibile, ma appunto anche senza arrivare a quello, anche solo riprodurle in vitro per poter studiare quello che succede nelle malattie. Oh, certo, quindi un obiettivo più prossimo e probabilmente più praticabile. Beh, però insomma ci si aspettano delle novità abbastanza interessanti? C'è un certo ottimismo? C'è un certo ottimismo, dunque la situazione è ambivalente, diciamo, perché in realtà molte case farmaceutiche che impegnate in queste nella ricerca di questi farmaci, che sono stati una fonte di grandi profitti storicamente, perché ovviamente sono malattie molto diffuse, e però adesso che appunto non essendoci delle grosse novità venute fuori negli ultimi anni, stanno un po' tirando i remi in barca, alcuni hanno chiuso centri di ricerca, li hanno riconvertiti su altre malattie, e altre però invece stanno puntando su queste nuove tecnologie, e anche se nei prossimi 3-4 anni non si prevede che arrivino ancora nuovi farmaci prodotti di queste nuove tecnologie, con grandi novità, perché quelli già in sperimentazione sono comunque quelli vecchi, e però per più avanti, diciamo sull'orizzonte dei 4-5 anni o forse 10, adesso chiaramente poi non si sa, questi numeri sono sempre un po' un approssimati, però comunque insomma nel giro di alcuni anni si spera che cominciano ad arrivare nuovi farmaci di questo genere, che quindi potrebbero veramente cambiare, perché poi le potenzialità per terapie molto più efficaci ci sono. Per esempio si è visto che c'è un anestetico che è dato appunto a persone con grave depressione, in poche ore elimina i sintomi della depressione, mentre i farmaci normali ci mettono delle settimane ad agire. Ora questo non è utilizzabile come farmaco normale perché ha degli effetti collaterali assolutamente non tollerabili, però indica che c'è una possibilità, agendo con certe molecole nel cervello, di risolvere la depressione in poche ore anziché in 4-5 settimane. Quindi se si trovassero delle altre molecole che non hanno i suoi inconvenienti, sarebbe chiaramente un tipo di farmaci veramente innovativo. Ecco Giovanni, è noi un esempio. Certo, Giovanni, noi poi quando parliamo di questo tipo di cose, in chiusura diciamo sempre, ecco, non scriveteci chiedendo dove si possano trovare già queste cure, perfettamente comprensibile che ci sia tantissima gente che è interessata ad avere degli strumenti nuovi e molto più efficaci, però stiamo parlando ancora di ricerca di base. Cioè, sì, però tu dicevi, insomma, gli esperti, gli addetti ai lavori dicono che qualche risultato significativo non è poi così lontano. Insomma, sì, esatto. Per adesso appunto non ci sono ancora concretamente niente di più di quello che si trova normalmente negli ospedali e nelle farmacie, però si spera che in pochi anni possa arrivare. Giovanni Sabato, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro, buona serata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come vi dicevo poco fa, prima di andare a sentire com'è la notizia sul traffico, a Trento ci sono gli ICT Days, partono la prossima settimana, a partire dal mercoledì e si arriva fino alla fine, fino al weekend. Per parlare degli ICT Days ho qui con me questa sera Fausto Giunchiglia. Buonasera Giunchiglia. Buonasera. Docente di informatica all'Università di Trento e presidente di Trento Rise. Adesso diciamo rapidamente qualcosa su Trento Rise, che è un po' l'ente, la struttura, il progetto che gestisce questi ICT Days. Allora, ICT Days vuol dire Information and Communication Technology, giornate dedicate a questa tematica che sappiamo è un comparto di ricerca e di produzione sia nelle università che nelle aziende, insomma di una quantità di cose veramente immensa, e in effetti in questi 4-5 giorni a Trento ci sono davvero un sacco di appuntamenti in cui si discute di tantissimi aspetti diversi di queste possibili applicazioni. Prima di arrivare poi a Trento Rise, Giunchiglia, però le chiedo, c'è un sito internet sul quale andare a vedere il programma, dal sito nostro della trasmissione andateci e troverete il link per vedere tutte le cose che ci sono qua dentro. Il senso generale però di questa operazione, la missione che voi volete portare avanti facendo iniziative come queste, ma anche molto di più, qual è? Beh, lo ha detto lei, ormai l'ICT è ovunque, è pervasiva e lo vediamo tutti i giorni con i nostri telefonini, tablet, e quindi ormai l'ICT non può più essere considerata solo come un fenomeno tecnologico, ma deve essere considerata in tutti gli aspetti che non sono solo tecnologici, ma anche di impatto sulla società, di abilitanti a quella che io chiamo, che molti chiamano innovazione sociale. Sì. In questa prospettiva, diciamo così, gli ICT Days hanno questa doppia funzione, questo doppio mandato, che è quello da una parte di creare un evento dove ci sono delle iniziative, delle seminari mirate agli addetti al settore, ma soprattutto una seconda parte che invece è mirata alla cittadinanza. Non a caso, quest'anno ICT Days, l'abbiamo chiamato ICT Days Orizzonti 2015. E penso che nel nome, se mi permette un attimo, Orizzonti 2015, Noi intendiamo quindi non solo parlare di ICT, non solo parlare di impatto della tecnologia in maniera astratta, ma vogliamo provare a pensare che cosa sarà la società, come saremo noi, nel 2015, a 2 anni da ora, quindi abbastanza lontano per vedere il cambiamento, abbastanza vicino da poter provare a fare una qualche previsione. Per parlarne, perché già diventa attualità. Mi pare di capire però dalle sue parole che lei vuole sottolineare in modo particolare questo aspetto social, ovvero quando si parla appunto di tutte queste nuove tecnologie, è vero che già si dice, si ragiona sugli effetti che hanno sui nostri comportamenti, però voi volete spingere di più l'acceleratore in questa direzione e dire bisogna proprio partire, no? Forse dal sociale per andare a ragionare anche sulle tecnologie, c'è un'accentuazione maggiore. Sì, diciamo così, facciamo un esempio. Quando anni fa fu inventata la macchina, nessuno pensò all'impatto sociale della macchina, che diciamo è stato notevole sulla società. Però se ci pensiamo bene, diciamo così, la macchina per avere un percorso di impatto così pervasivo come ha avuto ci ha messo qualche decennio, anche forse più di qualche decennio. Nelle tecnologie dell'ICT così non è, e non è per due motivi. Prima di tutto perché l'ICT manipola dati, manipola conoscenza, quindi un qualunque programma che va a manipolare i miei dati personali, piuttosto che la mia locazione, piuttosto che informazione sugli eventi di un determinato territorio, va a cambiare immediatamente la mia conoscenza e immediatamente il mio stile di vita, e quindi bisogna stare molto attenti a far sì che non sia la tecnologia a guidare il cambiamento della società, invece che la società a guidare il cambiamento della tecnologia. Come dicevo prima, con la macchina questo pericolo non c'era, o comunque era molto minimizzato dai tempi lunghi di adozione della tecnologia. Così non è nelle tecnologie. Non è nelle tecnologie, certo. Nel 1959 in Italia c'erano 900.000 automobili, mentre invece i telefonini siamo arrivati ad averli tutti nell'arco di 3-4 anni, 32-33 milioni di cellulari, questo che lei dice, l'accelerazione. Non solo, se ci pensa bene, adesso che abbiamo i telefonini ormai tutti, a fare una app, le famose app degli smartphone, se lei ci pensa, quando io ci metto il tempo, 2 mesi, 6 mesi, 1 anno a inventarmi la app, ma da quando l'ho inventata al momento in cui va in produzione e viene usata da tutti, è una giornata, cioè il tempo che Apple ci mette di mettermela sull'App Store. Spaventosamente diverso. Senta, in conclusione Giunchiglia, Trento Rise è un po' il progetto che cerca di gestire questo insieme sia di iniziative ma soprattutto di riflessioni che lei ci ha detto. Sì, esattamente, diciamo così, cerchiamo di partire da tutta la ricerca e l'alta formazione, la formazione che esiste, metterla in un contesto di tipo sociale e vedere in che modo si può in qualche maniera anticipare, guidare, accompagnare il processo di adozione di nuove tecnologie, con un duplice scopo. Prima di tutto perché chi è più veloce ad adottare nuove tecnologie sono i nuovi players del futuro, coloro che avranno le società di software o anche di hardware, anche società esistenti, perché la società che sta cambiando, il turismo piuttosto che la mobilità, piuttosto che qualunque altra cosa. E due, perché quindi innovazione di business anticipatoria rispetto al resto del mondo, comunque a chi va non va così veloce, ma anche innovazione sociale, appunto, per far sì che mentre facciamo di business cerchiamo di fare un qualcosa che sia una società migliore, diciamo così, alla fine delle fini. Grazie Giunchiglia, e noi seguiremo un po' gli ICT Days, quindi ne parleremo nelle prossime puntate. Grazie, buon lavoro. Grazie mille. Chiara, se io adesso ti lascio il microfono, tu mi parli di cristalli liquidi, promesso? Sì, promesso. Lasciami il microfono e io allora saluto subito colei che lo condividerà con me, che è Valentina Domenici. Intanto buonasera. Salve, buonasera. Lei è docente di elettrochimica al Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell'Università di Pisa, e insieme a me, insomma, proveremo a raccontare come i cristalli liquidi, che noi siamo abituati a pensarli nei display dei computer, dei cellulari e anche delle TV, possono in qualche modo essere utili poi nella robotica e nella microbiorobotica per realizzare microfibre muscolari. Ecco, io l'ho buttata lì. Adesso chiedo a lei innanzitutto di introdurci forse la definizione, che cosa sono i cristalli liquidi per chi non lo sa. Allora, i cristalli liquidi sono una categoria di materiali che hanno delle proprietà intermedie tra i solidi cristallini e i liquidi. Sono materiali molto versatili, possono essere ordinati e allineati utilizzando dei campi esterni. Tipicamente nei display a cristalli liquidi, ad esempio, si sfruttano i campi elettrici per allineare le molecole che costituiscono i cristalli liquidi. Quindi i solidi hanno proprietà, in particolare nei cristalli sono allineati nelle tre direzioni dello spazio, hanno un ordine molto rigido, mentre tipicamente nei liquidi le molecole si muovono in maniera random e non hanno un ordine. Tutte disordinate, sì. Mentre nei cristalli liquidi c'è un ordine parziale, per esempio c'è un ordine solo in una direzione. È proprio questa caratteristica che li rende così utili nella realizzazione di quello che dicevamo di fibre muscolari artificiali. Ecco, le chiederei di spiegarlo. Sì, dunque, questi materiali sono dei polimeri liquido-cristallini. Il loro nome tecnicamente è di elastomeri liquido-cristallini. E quindi sono dei reticoli polimerici in cui sono intrappolate le molecole di cristallo liquido. Diciamo, hanno il vantaggio di poter cambiare la forma macroscopica, quindi per esempio questi film possono allungarsi e accorciarsi, cambiando uno stimolo esterno, che può essere anche molto semplicemente la temperatura, cioè cambiando la temperatura queste fibre si allungano o si accorciano o si contraggono in modo controllato, controllando lo stimolo, che può essere appunto la temperatura, oppure, come in questi materiali che sto studiando di recente, i piccoli campi elettrici, e poter far fare dei piccoli movimenti controllati di queste fibre. E questo è molto importante nel campo della microbiorobotica, perché possono essere utilizzati proprio come dei piccoli muscoli artificiali. Ecco, in prospettiva si può pensare, ad esempio, a delle fibre muscolari più complesse, quindi a bracci robotici veri e propri? Per il momento questa è un'applicazione che penso sia abbastanza lontana. Per ora quello che si riesce a fare è fare delle cose molto piccole, quindi sì, che è un vantaggio per vari dispositivi con applicazioni sia biomediche ma anche nell'elettronica. Ci fa un esempio? Dunque, potrebbero essere utilizzati come delle piccole valvole, quindi controllate con degli stimoli elettrici, appunto, per far passare, ad esempio, un farmaco, oppure per bloccare il passaggio di un farmaco. Questa potrebbe essere un'idea. Va bene, grazie Domenici, e davvero buon lavoro. Sembra che le prospettive, insomma, ci siano, e come. Sì, siamo solo all'inizio, infatti. Grazie a voi, arrivederci. E voilà, il tempo è passato, tu hai altre storie? Abbiamo già finito, sì, ne avrei, ma me le tengo. Per la settimana prossima. Buona settimana a tutti e a tutte, ci vediamo qui fra 7 giorni. Buona serata.